Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In questa nostra nuova puntata insieme agli amici dell'Adico saluto nuovamente con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Gianluca, parliamo di chilometri, quelli che si fanno in macchina, non a piedi, che sarebbe buona cosa anche cercare di fare dello sport, ma certe volte insomma l'auto è un mezzo importantissimo, soprattutto magari per chi lo utilizza per lavorare. Vanno male le cose se tu compri un'auto usata e poi ti accorgi che quello che hai comprato insomma non è proprio l'auto che pensavi. Sì, infatti non è la prima volta che succede, non è la prima volta che sentiamo casi di questo genere, questo è anche un caso a lieto fine. Stiamo parlando chiaramente di contachilometri truccati, vengono definiti così, ovvero auto che vengono vendute con un quantitativo di chilometri che poi non è quello reale, e ovviamente è decisamente inferiore. Questo fa sì che insomma si vada ad acquistare un'auto pensando che abbia certe caratteristiche, la si acquista dando una certa cifra perché si pensa appunto che abbia quel chilometraggio e poi alla fin fine si scopre che in realtà quell'auto ha compiuto molti più chilometri e quindi è molto più usurata e creerà diversi problemi. Ecco, l'avventura che disavventura che andiamo a raccontare, anche se a lieto fine, riguarda un nostro socio mestrino che appunto ancora nel 2015 aveva acquistato un'auto, una BMW, da un concessionario bergamasco. L'auto era usata, secondo la dichiarazione appunto del concessionario, aveva 70.000 chilometri. In questo arco di tempo, quindi dal 2015 al 2017, l'uomo ha continuato a utilizzare ovviamente la sua vettura ed è stato anche costretto in un paio di occasioni ad intervenire per alcune riparazioni che alla fin fine gli hanno portato via una cifra che ruota attorno ai 3.000 euro. Quindi un acquisto di un'auto a 9.700 euro, un'auto usata con teoricamente 70.000 chilometri. Nell'ambito di questo periodo, dal 2015 al 2017, c'è stata una spesa di circa 3.000 euro per ripararla e la sorpresa è arrivata proprio a una di queste riparazioni, quando l'auto è stata portata proprio da un concessionario BMW, perché qua è stato scoperto che in realtà l'auto, non dal 2015, cioè da quando è stata acquistata dal nostro socio, ma addirittura dal 2013 aveva già percorso 100.000 chilometri, ovvero nel 2013 aveva percorso 100.000 chilometri, nel 2015 quando è stata acquistata invece chi l'ha acquistata pensava che i chilometri l'auto ne avesse percorsi 70.000, quindi stiamo parlando di noi chiamiamola truffa, chiamiamolo raggiro, insomma un trucco che purtroppo non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare. E quindi la persona in questione si è rivolta ovviamente al nostro ufficio legale e devo dire che evidentemente anche grazie al lavoro dell'ufficio legale, grazie al fatto che effettivamente il concessionario di Bergamo si è reso conto evidentemente di averla fatta grossa, in tempi record è stata accolta una richiesta di rimborso che si aggira attorno agli 8.500 euro. Ecco, è stata formalmente rispettata in pieno la richiesta del nostro socio, perché 8.500 euro era esattamente la somma che avevamo richiesto, ricordiamo, su una spesa di 9.700 euro, l'auto era stata comprata a 9.700 euro, però nel 2015, quindi possiamo contare sicuramente l'usura, però ecco, siamo molto orgogliosi di questo risultato, che ci insegna cosa, Francesco? Ovviamente che lo diciamo in tutte le materie, però ci teniamo a dirlo anche perché è un po' il nostro compito: mai arrendersi, mai lasciar perdere. Quando si crede di aver subito un sopruso, un'ingiustizia, un disservizio, è sempre meglio mettersi in mano a persone esperte, perché questo disservizio, questo sopruso può essere assolutamente sanato. E questo è un bel esempio, anche perché è un esempio a tempo record, ne raccontiamo tanti anche durante la vostra trasmissione. Ricordiamo anche sul tema bollette, che è la tematica che affrontiamo di più, mai arrendersi di fronte appunto a qualcosa che non ci risulta chiaro. Rivolgiamoci sempre appunto agli esperti, alle associazioni come la nostra, perché veramente si vanno a risolvere dei problemi anche che sembra impossibile risolvere. Ecco, in questo caso il vostro cliente si è accorto del fatto perché è andato dal concessionario BMW, evidentemente c'era uno storico proprio registrato in riferimento a quella macchina che ha permesso permesso di capire che c'era un problema sul chilometraggio. Una cosa che può fare qualcuno quando compra una macchina è andare a vedere nel libretto o nelle varie manutenzioni che questa macchina ha effettuato negli anni quali erano i chilometraggi scritti e vedere se c'è una corrispondenza con quello che segna il tachimetro, in maniera di essere un po' più attenti quando si acquista un'auto usata, proprio sul discorso dei chilometri, perché chilometri significa in qualche modo usura e probabilità di rotture future. Quindi attenzione al vostro acquisto della macchina usata, e se no, insomma, si interviene anche grazie alle associazioni di difesa consumatori come l'ADICO. Ricordo che c'è il sito che potete andare a vedere, dove ci sono interessanti notizie, e poi anche i contatti telefonici, che è www.associazionedifesaconsumatori.it. Caro Gianluca, ci risentiamo assolutamente questo prossimo venerdì per un altro collegamento insieme a te. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.